La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24 da Oscar Giannino, e oggi è il 9 ottobre. Beh, per cui di voi magari, non so, 9 ottobre è l'anniversario della fucilazione di Che Guevara, certo da ricordare. Per me questa data è il 21esimo anniversario dell'attentato alla sinagoga di Roma, dove venne ucciso un bambino che aveva poco meno di 2 anni, Stefano Gaitace, e ferite 35 persone. Nessuno poi fu assicurato alla giustizia in Italia degli attentatori di Abu Nidal, di quel sanguinoso episodio. Ricordiamo sempre, perché la memoria è fondamentale, e a maggior ragione visto che nel Medio Oriente non è che siamo riusciti a costruire qualche cosa di buono. Ma di cosa ci occupiamo oggi? Ci occupiamo del giallo del giorno. Questo giallo del giorno non è che cosa farà il governo per sanzioni eccessive del tifo nella curva negli stadi, perché il governo, con tutto quello che ha da fare, ha appena dichiarato un'ora fa che aprirà un tavolo con la Federazione Italiana Gioco Calcio e con il CONI per evitare le sanzioni eccessive. Quindi, tifosi in ascolto, il messaggio del governo è una priorità nazionale, non vi preoccupate, niente chiusura agli stadi. No, non ci occupiamo di questo. Giallo del giorno è, tanto per cambiare, su un tema che qui ritorna perché ci fa perdere più prodotto, il reddito e di altri che sono in crisi, l'abbiamo già detto, cioè l'eccesso di tasse. Stiamo aspettando un Consiglio dei Ministri oggi. Mancano 5 giorni oramai alla scadenza della legge di stabilità, ma oggi è atteso il provvedimento per rimettere il deficit sotto il 3%, e in questo provvedimento tutti i giornali stamattina e nel corso della giornata hanno dato delle anticipazioni. Allora, queste anticipazioni prevedevano che per entrare sotto il 3%, oltre a misure di inibizione delle spese disponibili ancora per diversi ministeri, eccetera, eccetera, e a misure, insomma, di taglietti di spesa, c'era una bella raffica di nuovi aumenti fiscali, tanto per cambiare, con l'aumento al 103% degli acconti IRAP, IRES, IRPEF, gli acconti oltre il 100% è la fantasia straordinaria della politica italiana. Per me queste robe dovrebbero essere mandate alla Corte di Lussemburgo e Strasburgo, altro che caso Berlusconi. E si parlava di un nuovo aumento delle accise sulla benzina immediato. Il giallo è che a questo punto, a metà giornata, il ministro Franceschini smentisce e dice: ma non se ne parla neanche, non c'è niente di tutto questo nel provvedimento. E allora il giallo è chiedersi: ma il governo è vittima di se stesso, perché a questo ci ha abituato, cioè a una raffica di nuove tasse, in realtà in cambio dell'IMU che viene sbandierato come 2,7 miliardi di minore pressione fiscale quest'anno? Oppure c'è un falsificatore di bozze che nell'ombra diffonde tra noi giornalisti le bozze che entrano nel Consiglio dei Ministri e poi il governo è vittima di questo? Ultima notizia, poi: si è appena chiusa la conferenza stampa dei 4 ministri del PDL o Forza Italia, che dir si voglia, che era molto attesa dopo il voto di Berlusconi, più volte rinviata, e a questa conferenza stampa il vice premier Alfano ha detto, sapete cosa ha detto? Non cambia nulla per noi, noi resteremo dei fieri guardiani antitasse. Io stavo morendo dalle risate di fronte a queste parole di Alfano, perché vi ricordo che nel frattempo il governo in cui Alfano e gli altri 3 ministri del PDL sono fieri guardiani antitasse, ve lo ricordo, non solo ha alzato le imposte sulla birra, andate a firmare www.salvalatuabirra.it, e quindi da 37 centesimi a 47 centesimi ogni euro di birra se lo papperà lo Stato. Ma nel frattempo, tanto per ne ricordarne alcune, nella prossima dichiarazione dei redditi il beneficio per le detrazioni sulle polizze vita scende da 245 a 120 euro, quindi pagherete più tasse. Oppure, per dirne un'altra, l'imposta di registro passa da 168 a 200 euro, pagherete più tasse. Oppure l'IRPEF comunale, da tutto quello che si vede dei bilanci preventivi, siamo a ottobre del 2013, in corso di approvazione dei grandi comuni italiani, tutti stanno portando l'aliquota, o comunque i più, per esempio Milano, per esempio Roma, al massimo dell'aliquota 0,9%, pagherete più tasse. Ma per fortuna c'è la fierezza dei grandi guardiani antitasse del PDL Forza Italia. Allora chiedo a un collega che segue Finanza Pubblica tutti i giorni, il giornale La Stampa, innanzitutto di illuminarci e darci la sua opinione sul giallo del giorno, e chiedo anche a voi di chiamare 800 24 00 24 per dire se ve le aspettate o meno queste nuove raffiche di tasse anche stasera. Ma la domanda ad Alessandro Barbera, che è con noi della Stampa e che ringrazio. Buonasera Barbera. Buonasera Oscar. Allora, dal suo punto di vista, ce lo dobbiamo aspettare oppure no? Come funziona questo giallo? Chi è colpevole? Ma per la verità di questi aumenti si è parlato prima che la manovrina fosse congelata per via del noto trambusto attorno alla vicenda Berlusconi. Quindi non c'è nulla di nuovo, era esattamente quello che era previsto prima ed era quello che prevedevano le bozze. Stamattina evidentemente il governo, forse perché preso da mille problemi contemporaneamente, l'Alitalia, la legge di stabilità, il contenimento della spesa nel 2013, eccetera, potrebbe aver fatto un po' di pasticci, ma insomma, diciamo, siccome il Consiglio dei Ministri è nel pomeriggio e Franceschini ci ha promesso che non ci saranno aumenti di tasse, chissà che questa volta non facciano sul serio, non si smentiscano un'altra volta. Ma secondo lei, cioè, ci sono versioni contrastanti perché al tesoro rispetto al coordinamento politico del governo nella predisposizione dei provvedimenti, come anche alcuni hanno scritto in questi mesi a dire la verità, e più volte Saccomanni è finito nel mirino dei ministri più politici che gli hanno ricordato con una certa durezza: sei tecnico tu, stai un po' buono, perché non è un mistero che Saccomanni avrebbe preferito diversamente sull'IMU, sull'IVA l'ha avuto, ha vinto lui, per così dire. C'è davvero questa divergenza di vedute su tasse o tagli di spesa oppure no, secondo lei? Se la risposta a questo giallo è nel fatto che il Tesoro avrebbe voluto imporre questi aumenti delle accise e in realtà poi, diciamo, nella fase di valutazione politica, sempre troppo tardi, ma insomma, che è stata quella di Franceschini con la sua smentita. Se c'è effettivamente una differenza di vedute, non sarebbe difficile immaginare il perché. Ve lo spiego rapidamente. Saccomanni, sin da quando è arrivato, ha sempre detto di considerare la propria faccia una cosa alla quale tiene. Ha sempre detto che con Bruxelles non si possono fare scherzi, non si possono inventare sforamenti di spesa, e dentro al governo, un po' da sinistra, un po' da destra, forse un po' più da sinistra che da destra, c'è un po' la tendenza a dire spendiamo di qua, aggiungiamo di là. Insomma, siccome poi in questo provvedimento, non lo dimentichiamo, oltre a rientrare nel deficit per circa 1.600.000.000, quel tanto che ci serve per metterci formalmente a posto con Bruxelles, c'è un aumento della cassa integrazione guadagni per circa 330.000.000, ecco, non vorrei che in questo ci sia la volontà di Saccomanni di ribadire per l'ennesima volta che i conti devono tornare, che non si possono aumentare le spese, tendo poi al Tesoro di fare i salti mortali e non tagliare ciò che è necessario per finanziare le spese che si vogliono creare. Siccome di tagli se ne vedono pochi, ecco allora che probabilmente si può avere la risposta di questo genere. Allora, oggi tra le tante novità del giorno ce n'è una, è uscita l'ennesima versione, è la quarta versione, il quarto anno di seguito, che Credit Suisse, o meglio una branch di Credit Suisse, il Global Wealth Report, è curato dall'ufficio studi del Credit Suisse, ed è questo rapporto annuale sulla ricchezza mondiale, una ricchezza allineata in dollari a prezzi correnti. Da questo report, che analizza come è andato nell'ultimo anno l'avvaloramento, l'impoverimento della ricchezza media pro capite e delle famiglie, l'Italia esce come al solito in posizione europea molto forte, perché in media la famiglia italiana ha una ricchezza media che viene stimata in $241,000, quindi poco meno di €180,000, e rispetto al 2012 questa ricchezza è cresciuta del 5,6%. In questa graduatoria si conferma il fatto che la Francia sta meglio, un pochino meglio di noi, ma la Germania starebbe peggio di noi. Non è che per caso al governo, guardando alla ricchezza degli italiani, pensano che tutto sommato qualche tassa in più male non fa rispetto ai tagli di spesa? Ripartiamo da questa domanda, Alessandro Barbera, ma dopo le informazioni stradali, tra un minuto siamo qua. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta. Abbiamo con noi Alessandro Barbera della Stampa. Ci occupiamo del giallo del giorno. Ci saranno o meno gli aumenti di accisa e gli aumenti di degli cosiddetti acconti d'imposta oltre il 100% che erano nella bozza che doveva entrare il Consiglio dei Ministri di oggi. Il Consiglio dei Ministri che invece l'ha smentito. Vedremo. E stavamo parlando della ricchezza media come stimata dal rapporto annuale del Credit Suisse. Molti di voi hanno subito reagito giustamente con il messaggio 349-238-6666. Dicendo, però nella ricchezza naturalmente c'è la valutazione anche di quella immobiliare, qui c'è una percentuale elevatissima, oltre l'80% di proprietari, in Germania è molto più bassa, è esattamente così in effetti. Ripeto, stiamo parlando di ricchezza, non di reddito né pro capite né familiare, perché quello a prezzi correnti, il nostro in Italia, è arretrato di circa 25 anni. Ma non è che però questo effetto ricchezza, Barbera, continua ai politici a far venire un po' di voglia di aumentare la via fiscale ancora? Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio, e peraltro è un argomento sul quale dobbiamo stare molto attenti, perché quando si dice o si pensa che l'Italia sia un paese, come dire, che ha fatto i compiti a casa, o qualcuno cerca di far finta che non abbiamo un debito pubblico così alto, poi un giorno qualcuno ci ricorderà che siamo queste classifiche e il fatto che siamo un paese dove la ricchezza complessiva di ciascuno di noi è ben più alta di quella di altri cittadini europei. Ci ho detto, c'è un punto sul quale il governo in qualche modo sbaglia, perché o comunque dovrebbe avere il coraggio di andare fino in fondo. Se questa è l'impostazione, non dovrebbe essere, come dire, non, la strada non potrebbe essere un aumento indiscriminato delle imposte indirette, perché l'aumento indiscriminato delle imposte indirette rischia di essere, come dire, di colpire più le categorie più deboli che non quelle più forti. Se veramente si pensa e si ha la convinzione che gli italiani siano, tra virgolette, troppo ricchi rispetto ai debiti, alla povertà dello Stato nel suo complesso, beh, allora per coerenza bisognerebbe pensare a fare una patrimoniale. Per capirci, non avremmo dovuto togliere l'IMU sulla prima casa se pensiamo questo. E purtroppo il governo vive una contraddizione: da un lato ha un ministro dell'economia che viene dalla Banca d'Italia, che pensa esattamente le cose che ci stiamo dicendo, e dall'altra al PDL che un po' perché non ci crede, un po' perché pensa che questo gli porti più voti, e invece va in direzione esattamente opposta e pensa che invece che aumentare le imposte sui patrimoni bisognerebbe abbassarle, senza rendersi conto che poi l'unico risultato è quello che si sta producendo, cioè che alla fine aumenta l'imposizione indiretta. La via d'uscita, e io lo penso, e non sono l'unico a pensarlo, dovrebbe essere complessivamente il più possibile tagliare la spesa. Il fatto che siamo ancora in recessione, secondo me, è un falso problema, perché, insisto a dirlo, so che non è una cosa di moda in questo periodo, ma spero che lo torni presto, di spese da tagliare ce ne sono ancora tante, e noi questa cosa facciamo finta di non vederla. Allora, il ragionamento di Alessandro Barbera ha toccato un punto fondamentale. Il punto è quello di valutare gli effetti quando ci sono aumenti di imposta. Un paese che molto patrimonializzato, come siamo noi, ed è molto duramente colpito nei redditi, nella capacità di fare reddito, come evidente avrebbe bisogno di un intervento fiscale in cui, sì, è giusto quello che ha detto Alessandro Barbera, anche secondo me, si disincentiva l'accesso di patrimonializzazione, ma a patto a fianco di tagliare spesa per poter abbassare in maniera molto significativa l'imposta sui redditi delle persone fisiche, dei lavoratori, tanto dipendenti che autonomi, quanto delle imprese. Invece noi abbiamo alzato le imposte dirette, indirette e patrimoniali, e questo provoca l'effetto negativo. È una politica che non ha la visione di cosa significa usare la leva fiscale anche accrescendo sulle poste patrimoniali, ma abbassando tutto il resto per liberare l'energia nella capacità di domanda e offerta, che poi significa produrre reddito e investimenti. Abbiamo 27% di investimenti in meno. Sentiamo Andrea da Brescia come la pensa. Andrea, prego. Sì, buonasera, complimenti Oscar per la trasmissione. Io sono un commercialista con un piccolo studio, ecco. Lavoro da oramai 12 anni e non ho mai visto un contesto come questo. Non c'è un minimo di progettualità nella creazione delle norme. Sono arrivati, adesso sembra che forse ci sarà questa cosa qui, degli acconti del 103% addirittura sull'anno 2013, un anno in cui sicuramente tutte le imprese che incontrerò per discutere su quanto e come pagare gli acconti, ci saranno un sacco di problemi. In un'unica rata, se mettono questa cosa qui, creeranno un nuovo ed importante aggravio da un punto di vista della liquidità per tantissime tantissime realtà. La cosa che non capisco è che non c'è progettualità, non valutano come una norma si inserisce nel contesto normativo che c'è e gli effetti che questa potrà avere nel tempo, e questo secondo me per una classe politica è davvero, davvero scandaloso. È sinonimo di cecità. Sono d'accordo anch'io con Andrea da Brescia. Sì, la risposta che devo a molti che chiedono: ma gli aumenti che stanno deliberando i comuni nei bilanci preventivi sono retroattivi dall'inizio del 2013? La risposta a questa domanda è sì, sono retroattivi, perché quello è il bilancio preventivo 2013. Come al solito, l'irretroattività dello statuto dei contribuenti viene messa sotto i piedi dalle decisioni degli enti locali, come dallo Stato centrale che lo consente. Sentiamo Francesco da Roma. Prego, Francesco. Salve, buonasera e complimenti per la trasmissione. Io volevo così lanciare una provocazione. La mia sensazione è che abbiamo una struttura di governo così immensa, grande, costosissima, poi tutto si riduce a concediamo questa fiscalità in favore dei lavoratori e poi preleviamo da un'altra parte. Secondo me questo lavoro lo poteva fare anche un ragioniere commercialista, sì, ben preparato, voglio dire, è una partita doppia semplice. Sì. Io mi aspetto e pago le mie tasse perché ci siano delle persone, professionisti e professionisti che cerchino delle soluzioni alternative. Ecco Francesco, che ci siano o meno, al tesoro c'è gente capace di fare questi ragionamenti, però poi in politica da moltissimi anni, chiunque governi, non si vedono. Devono risposte a molte che mi dicono, ma come ricontrarlo al patrimoniale? Certo, io sono contrario al patrimonialone per abbattere il debito pubblico, perché quello ci deve pensare lo Stato con il suo patrimonio. Sono contrario a una patrimonialona o una patrimoniale, chiunque la proponga, che si aggiunga all'attuale pressione fiscale diretta e indiretta. Quello che tento di spiegare è che le leve vanno utilizzate con intelligenza. Se si alza sul patrimonio per un fine, bisogna invece diminuire di parecchio sui redditi. Questo è il punto di fondo. Conclusione, Barbera, e sulla legge di stabilità entro 5 giorni c'è quello che si nasa intorno a Palazzo Chigi dal giornalista che sta sempre lì a tentare di abbeccarsi le carte. Che cos'è? C'è un orizzonte o non ancora? Apparentemente sì. Non potremmo essere smentiti facilmente. Ci dicono, ci promettono un taglio delle tasse sul lavoro che, viva Dio, è quello che qualunque organismo internazionale ci dice da anni di fare, però ancora non ho idee chiare, non sanno dove prendere i soldi, siamo sempre lì, dicono di voler abbattere il cuneo fiscale, cioè la differenza fra le tasse che paga ciascuno di noi e ciò che l'imprenditore paga al fisco. Ebbene, dicono che ci taglieranno il cuneo fiscale per almeno 4 miliardi, che questi 4 miliardi andranno più o meno nelle nostre tasche. Poi cerchi di capire da dove prenderanno questi soldi, perché se il ragionamento è quello, se i conti devono tornare, dovranno essere 4 miliardi di tagli alla spesa. Non c'è ancora alcuna traccia di dove prenderanno questi 4 miliardi. Se poi l'idea che al tesoro hanno è che fare tagli in questa fase ancora recessiva è sbagliato, ecco, è sbagliato, allora c'è che essere molto preoccupati. Appendiamoci al tram. Io ringrazio Alessandro Barbera. Nel frattempo Bondi del PDL ha risposto ai 4 ministri del PDL dicendo la loro conferenza stampa è stata incomprensibile. Il giallo lo scopriremo solo vivendo. Stasera al Consiglio dei Ministri. E comunque continuate con Radio 24, l'appuntamento con la versione di Oscar a domani sempre alle 16:30 e in podcast. Grazie a voi.